Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, un argomento di cui vogliamo parlare oggi riguarda i risparmiatori che sono stati traditi da alcuni fondi immobiliari. Raccontaci un po'. Sì Francesco, questa è una situazione che è scoppiata proprio adesso, proprio in questi giorni. Ne avremo probabilmente un extra lavoro perché, come è successo per i buoni fruttiferi, ancora una volta diciamo i risparmiatori si sono ritrovati spiazzati da alcuni prodotti proposti dalle poste. Allora diciamo che la questione è venuta fuori proprio nei giornali in questi giorni. Noi avevamo avuto delle avvisaglie perché più di qualcuno ci aveva segnalato la cosa, più di qualche socio ci aveva segnalato la cosa, più che altro telefonandoci e chiedendoci informazioni. Adesso invece il caso è scoppiato. Stiamo parlando di un fondo immobiliare delle poste che era stato piazzato tra il 2002 e il 2005, si chiama Fondo IRS, e niente, la sorpresa chiaramente negativa è questa: al 31 dicembre 2016, quando quindi questo fondo scadeva, i risparmiatori hanno scoperto che insomma le loro quote si erano deprezzate del 60%. Insomma, ci ritroviamo veramente in un periodo in cui il risparmio viene regolarmente tradito. Abbiamo visto quello che sta succedendo in continua evoluzione con Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Anche qua abbiamo tantissime persone che si sono rivolte a noi, una decina di cause, ne abbiamo già parlato. Sappiamo dei buoni fruttiferi, anche questi sono dei prodotti che sono stati piazzati in questo caso dalle poste italiane e che hanno perso praticamente, sono dimezzati di valore, sì. E adesso ci troviamo con questo fondo immobiliare IRS di poste italiane, piazzato appunto nel 2002 e che chiaramente ha subito la grave crisi del settore immobiliare. Quindi quando è stato piazzato si contava su dei rendimenti di un certo tipo, sappiamo benissimo come è andato col settore immobiliare, che ha visto addirittura dimezzare le compravendite dal 2002 all'anno della crisi, quindi al 2008, e quindi chiaramente la situazione è precipitata. Ora, come Adico ovviamente cercheremo di capire la dimensione del problema. Qua stiamo parlando di un fondo ad alto rischio, comunque era un fondo rischioso, però a quanto ci risulta già dalle prime indicazioni, ma anche da quello che abbiamo potuto leggere su alcune storie lette appunto sul giornale, ancora una volta il risparmiatore non era stato messo a conoscenza del reale rischio appunto di queste quote, di questo investimento. Quindi noi adesso monitoreremo la situazione. Sappiamo che Poste Italiane è subito scesa in campo dicendo di voler venire incontro ai risparmiatori, proprio anche in questo momento molto difficile per loro, e vedremo quindi cosa farà Poste Italiane. Noi chiaramente stiamo già valutando con il nostro ufficio legale le possibili richieste risarcitorie. Intanto, Francesco, vogliamo capire veramente la dimensione del problema, se è un problema che è così diffuso come quello che riguardava i buoni fruttiferi, che sì, erano stati acquistati da migliaia e migliaia di persone, o se è molto più ridotto. Comunque ovviamente vi terremo aggiornati e cercheremo un attimo di capire la situazione. Ecco, tu hai fatto riferimento a un fondo immobiliare, ma i casi riguardano anche altri fondi? Sì, perché da quello che si può capire, probabilmente questo problema del fondo IRS nasce adesso proprio perché il fondo scadeva al 31 dicembre 2016. Però c'è un altro fondo, sempre postale, l'Obelisco, che scadrà invece nel 2018 e per il quale si prevede addirittura una perdita dell'80% del valore delle quote. E in realtà poi ci sono un altro paio di fondi che però scadranno molto più avanti, quindi non ci facciamo la testa prima di rompercela. E però probabilmente vedremo come va appunto con questo fondo IRS, e non è detto che subito dopo dovremo affrontare la questione del fondo Obelisco. Ora la considerazione che ci viene è questa: insomma, abbiamo un periodo in cui veramente il risparmiatore prova degli investimenti che poi risultano fallimentari. Noi ci chiediamo se veramente queste persone, molto spesso sono anche persone anziane, vengono realmente messe al corrente dei rischi, certo, che corrono, perché questo è il problema grosso. Se una persona di 70-80 anni appunto procede all'acquisto di alcune quote anche abbastanza onerose come quelle del fondo IRF, ma il funzionario non mi fa capire che rischio veramente tanto, allora ci sono dei problemi. Se invece mi mette al corrente, è chiaro che qua le responsabilità di chi mi vende le quote diminuiscono, fermo restando che secondo noi certi investimenti devono essere riservati solo a chi davvero se ne intende. Ovviamente, ricordiamo che l'Adico è a disposizione, c'è il sito www.associazionedifesaconsumatori.it con il numero di telefono per eventuali contatti e informazioni ulteriori. Grazie a Gianluca Codognato, al prossimo appuntamento. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.